Davanti a voi ci sono un panno di lana, una lastra di metallo, un blocco di legno. Scegliete l'oggetto che trasmette il calore più velocemente per sciogliere il ghiaccio prima che vi colpisca.